contro il lusso dei profumi. Conosco ciò che disse Aristippo di Cirene. Conduceva una vita di mollezze e una volta interrogò un tale con il seguente sofisma. Un cavallo unto con profumo non ne è danneggiato quanto alle sue qualità di cavallo, né un cane spalmato con unguento nelle sue qualità di cane, perciò aggiunse e concluse, neppure un uomo. Ma il fatto è che il cavallo e il cane non hanno la benché minima nozione di che cosa sia il profumo. Per chi invece, come l'uomo, possiede una percezione più razionale, il compiacersi di avere addosso questi profumi da giovinetta diventa ben più biasimevole. Di questi profumi le specie sono innumerevoli. C'è il brenzio, il metallio, l'unguento regale, il plangonio, lo psagda egiziano. E Simonide non ha vergogna di dire nei suoi giambi: mi ungevo di profumi e di unguenti e di olio di baccare poiché c'era chi lo vendeva. Ricercano anche il profumo tratto dai gigli e dall'alcana, apprezzano il nardo, l'unguento di rose e gli altri ancora di cui si servono le donne, quelli umidi e quelli secchi, quelli in polvere e quelli da bruciare. Ogni giorno, per rispondere alla loro brama mai sazia, vengono inventati per essi profumi sempre nuovi, ed è per questo che esalano un odore di notevole cattivo gusto. Le donne addirittura incensano e aromatizzano i vestiti, le coperte e le case. Mancherebbe soltanto che questa loro voluttà dei profumi costringesse anche i vasi da notte a emanare buoni odori. Io approvo coloro che, sdegnati da questa affannosa cura, hanno un tale disgusto per i profumi, i quali portano l'effeminatezza nelle stanze degli uomini, da espellere dalle città ben governate gli artefici di queste cose, cioè i profumieri, e da cacciare via pure i tintori di lane variopinte, poiché non è lecito che nella città della verità penetrino vesti e unguenti fraudolenti. Gli uomini che son fra noi, invece, devono odorare non di profumi, ma di bellezza e bontà, e la donna emani il profumo del re, cioè di Cristo, non quello di polveri e unguenti, sia unta sempre dal carisma immortale della castità e si riallegri del santo unguento che è lo spirito. È questo che Cristo prepara ai suoi amici, un unguento odoroso, un profumo fatto con gli aromi del cielo. Di esso è unto anche il Signore stesso, come è detto per bocca di David. Per questo ti ha unto Dio, il tuo Dio, con olio di esultanza a preferenza dei tuoi compagni. Le tue vesti odorano mirre, aloe e cassia. Tuttavia, non dobbiamo aborrire i profumi inconsapevolmente, come gli avvoltoi e gli scarabei. Di questi si dice che se vengono bagnati con unguento di rose, muoiano. Alle donne alcuni pochi profumi vanno concessi, quelli che non danno la nausea all'uomo. L'uso esagerato di profumi, infatti, porta più a un odore di funerali che di convivenza sociale. Alle api e agli insetti l'olio stesso è molesto e tra gli uomini ad alcuni giova, ad altri è stimolo per la battaglia. Quelli che prima erano amici, l'olio, una volta unti, li porta negli stadi a battersi fino all'ultimo sangue. Non credete forse anche voi che il profumo, essendo olio addolcito, abbia il potere di rendere effeminati i costumi nobili e sani? Certamente. Come dunque abbiamo abolito la mollezza dal mangiare, così respingiamo la voluttà anche dalla vista e dall'olfatto, perché non avvenga che inavvertitamente diamo a quella licenziosità che avevamo fugato accesso all'anima attraverso le porte non custodite dei sensi. Se qualcuno facesse notare che il sommo sacerdote, il Signore, offre a Dio profumo d'incenso, sappia che non si tratta di un sacrificio o di profumo d'incenso. Bisogna intendere piuttosto che il Signore offre sull'altare come profumo spirituale il dono gradito della carità. In verità, l'olio da solo è sufficiente a nutrire la pelle, a rilassare i nervi e a mandar via l'odore del corpo quando è troppo greve, ammesso che ci sia bisogno per questo di usare l'olio. Ma l'uso ricercato dei profumi è un'esca di mollezza, la quale da lontano trascina a raffinate brame. La persona che non sa padroneggiarsi è condotta ovunque secondo dove lo trascinino il cibo, il letto, gli incontri, gli occhi, le orecchie, il palato e perfino il naso. Proprio come i buoi vengono guidati con anelli al naso e con corde, così chi non è padrone di sé è trascinato in giro dai profumi, dagli unguenti e dall'odore delle ghirlande. Dal momento che noi non concediamo alcun posto al piacere che non sia connesso con una reale esigenza e utilità per la vita, dobbiamo ora distinguere e vedere ciò che appunto è utile. Esistono infatti dei profumi che non danno la nausea e non eccitano la libidine, che non emanano odore di amplessi e di incontenibile lascivia. Sono invece sani e casti, ridanno vigore al cervello quando è affaticato e fortificano anche lo stomaco. Non si deve dunque eliminare completamente l'uso degli unguenti, ma servirsi di essi come di farmaci e aiuti per risollevare l'energia che languisce, per curare il catarro, il raffreddore e la nausea, come dice anche il poeta comico. Si unge di unguento le narici, giacché è fondamentale per la salute mandare odori buoni al cervello. Anche le frizioni ai piedi con pomate di unguenti che scaldano o rinfrescano si fanno perché recano un beneficio in quanto ritraggono, nelle persone congestionate, il sangue dalla testa e lo sospingono verso le parti più periferiche del corpo. Il piacere invece, a cui non è congiunta alcuna utilità, è segno di costumi dissoluti ed è un veleno di sensualità. Sono due cose completamente diverse il profumarsi e l'usare unguenti profumati. Nel primo caso vi è effeminatezza, mentre il secondo può anche essere giovevole. Il filosofo Aristippo, dopo essersi unto di profumo, soleva dire che i debosciati avrebbero dovuto perire miseramente come i malvagi, perché avevano infamato e reso oggetto di biasimo l'utilità dei profumi. Onora il medico poiché ti è di vantaggio, dice la scrittura. Anch'egli è stato creato dall'Altissimo e la guarigione viene dal Signore. E aggiunge, il profumiere prepara la pomata, non per il puro piacere naturalmente, ma per utilità, e per questo che gli unguenti ci sono stati dati. Non bisogna infatti in nessun modo adoperarsi ad ottenere nei profumi l'effetto di eccitamento sensuale, ma si deve ricercare solo l'utilità per la salute. Dio ha concesso agli uomini di produrre l'olio per alleviare le pene. Le donne stolte, tingendosi i capelli e profumandoli, diventano canute più presto che le vecchie, a causa di quegli aromi che disseccano. Per questo chi usa profumi ha l'aspetto più secco e la secchezza fa sembrare più vecchi. La canizia, infatti, è aridità del capello e mancanza di calore umido. La secchezza dei profumi assorbe l'umidità che è il nutrimento naturale del capello e ci rende più canuti. Come possiamo allora, a buona ragione, amare questi profumi a causa dei quali i capelli incanutiscono, cosa che tutti fuggiamo? Pertanto, come i cani da caccia, fiutando gli odori, trovano le belve, così le persone sagge scovano i depravati sulla scorta dell'eccessivo e malsano odore di profumi che emanano. È vietato l'uso delle ghirlande. Simile è anche il discorso sull'uso delle corone, uso comune quando si fa baldoria e ci si ubriaca. Vattene, non cingermi il capo con la corona. È bello in primavera sostare nei prati rugiadosi e morbidi, tappezzati di fiori svariati e nutrirsi, come fanno le api, di quel profumo così naturale e puro. Non è invece da persone sagge farsi una corona intrecciata di fiori colti dal prato intatto e portarsela a casa. È sconveniente ricoprire la capigliatura, già anghindata a baldoria, con bocci di rosa, viole, gigli o altri fiori del genere portati via ai prati. Inoltre la corona, cingendo la testa, la raffredda, vuoi per la sua umidità, vuoi per la sua freschezza. È per questo che i medici, sapendo per la loro scienza che il cervello è freddo, consigliano di spalmarsi con unguento il petto e le estremità delle narici, cosicché un'esalazione bollente possa pervenire poco a poco a riscaldare vigorosamente la freddezza del cervello. Quanto più allora bisogna evitare di raffreddarlo ulteriormente con i fiori, mentre il sistema nervoso richiede piuttosto di essere riscaldato. Del resto, coloro che si mettono le corone rovinano persino ciò che vi è di piacevole nei fiori. Infatti non godono della loro vista dal momento che cingono la corona al di sopra degli occhi, né del loro profumo, giacché sospingono i fiori più in alto del naso, e così, risalendo il profumo per natura verso l'alto, sopra la testa, il respiro rimane privo del piacere del profumo il quale gli viene sottratto. Come dunque la bellezza in sé, così pure i fiori danno diletto quando li si guarda. E in ciò bisogna che chi gode di questo spettacolo renda gloria al creatore delle cose belle. Il servirsi invece di queste ad uso proprio è dannoso, è caduco e riceverà come pena il pentimento. Il loro carattere effimero infatti si mostra apertamente, entrambi marciscono, sia il fiore che la bellezza. Il fiore rinfresca, la bellezza riscalda chi vi si accosta. In una parola, il godimento di queste cose, che oltrepassi il solo guardare, è un atto di violenza, non un piacere. Quanto al piacere, infatti, è bene per noi goderne, con temperanza, come in paradiso, se diamo credito seriamente alla scrittura. Ma bisogna intendere che la vera corona della donna è il suo uomo, e la corona dell'uomo è il matrimonio, e i fiori del matrimonio sono i figli di entrambi, che il divino agricoltore delle praterie carnali coglie per sé. La corona dei vecchi sono i figli dei figli, e la gloria dei figli sono i genitori, dice, e la nostra gloria è il Padre di tutti, e la corona dell'intera Chiesa è Cristo. Come le radici e le piante, così anche i fiori hanno qualità proprie, alcune salutari, altre dannose, alcune persino pericolose. L'edera, ad esempio, rinfresca. Il noce, caria, emana esalazioni che appesantiscono il capo, caroticon, come si evince dalla sua stessa etimologia. Il narciso è un fiore dall'odore greve, come indica il termine che lo designa. Esso, infatti, provoca torpore, narcan, ai nervi. Quanto agli effluvi di rose e di viole, essi sono freschi, come è noto, e quindi sollevano e contengono la pesantezza del capo. Ma a noi non è in alcun modo permesso di ubriacarci e neppure di essere brilli. Lo zafferano e i fiori di alcanna inducono un sonno tranquillo. Molte di queste piante riscaldano con le loro esalazioni il cervello, che per natura è freddo, e riducono l'eccesso delle secrezioni della testa. Di qui viene anche il nome della rosa, Rodon, che, dicono, è così chiamata perché emana un grande effluvio di odore, Ododes reuma, e per questo motivo, peraltro, appassisce presto. L'uso delle corone era sconosciuto anche agli antichi greci. Non ne usavano né i pretendenti, proci, né i lussuriosi, feaci. Negli agoni, inizialmente, il premio consisteva in un dono, poi in una colletta, poi nel lancio di foglie ai vincitori, e infine vi fu la corona, quando la Grecia, dopo le guerre persiane, aprì le porte alle mollezze. Ora, a coloro che sono sotto la pedagogia del Logos, le corone sono vietate, non perché si debba credere che tengano legato il Logos, che ha sede nel cervello, né perché la corona sarebbe il simbolo della spavalderia dei festini sfrenati, bensì perché è stata consacrata agli idoli. Sofocle, ad esempio, chiama il narciso antica corona di grandi dei, riferendosi a quelli ctoni, e Saffo in corona di rose le muse. Delle primizie delle rose che vengono dalla Pieria. Si dice anche che Era ami il giglio e Artemide il mirto. Ebbene, se è vero che i fiori esistono principalmente in funzione dell'uomo, ma gli stolti li hanno presi non per farne un uso buono e secondo natura, bensì per il culto abominevole dei demoni, allora noi dobbiamo astenercene per una questione di coscienza. La corona è simbolo di una calma indolenza. È per questo che i pagani incoronano i morti e per lo stesso motivo anche gli idoli, rendendo così essi stessi con i fatti testimonianza agli idoli del loro essere morti. Neppure i baccanti celebrano le loro orge senza corone. Quando si cingono di fiori si surriscaldano in vista del rito iniziatico. Ma noi non dobbiamo assolutamente mai avere qualcosa in comune con i demoni, e perciò non dobbiamo neppure, alla maniera degli idoli morti, incoronare l'uomo che è l'immagine vivente di Dio. La bella corona di amaranto è riservata a chi si sarà comportato bene nel mondo. In verità, questo è un fiore che la terra non è capace di portare e solo il cielo sa produrre. La corona di spine di Cristo. Inoltre, è follia che noi che sappiamo dell'incoronazione di spine del Signore ci prendiamo gioco della sua venerabile passione cingendoci di fiori. In realtà, la corona del Signore simboleggiava profeticamente noi, che un tempo eravamo sterili, ma che ora siamo raccolti intorno a Lui grazie alla Chiesa di cui Egli è il capo. La corona è però anche immagine della fede, della sua vitalità rappresentata dalla sostanza del legno, della gioia che ne deriva conformemente al nome stesso di corona e del suo pericolo tramite le spine. Infatti è impossibile senza sangue accostarsi al Logos. Questa corona intrecciata di fiori terreni marcisce. Si disfà il torciglio della perversità e il suo fiore si secca. Marcisce la gloria di coloro che non hanno creduto nel Signore. Incoronando Gesù elevato in croce, essi attestarono la loro stessa insipienza. Non comprendono, infatti, duri di cuore, che questo fatto fu una profezia piena di sapienza, mentre essi lo chiamano oltraggio inflitto al Signore. Il popolo traviato non ha conosciuto il Signore, non si è circonciso nell'intelletto, non si è illuminato nella sua oscurità, non ha visto Dio, ha rinnegato il Signore, ha mandato in frantumi il suo essere Israele, ha perseguitato Dio, ha sperato di oltraggiare e umiliare il Logos. Ma ecco che colui che ha crocifisso come malfattore lo ha incoronato come re. Perciò colui nel quale non credettero quando era uomo, questo stesso Dio amorevole verso gli uomini, lo conosceranno quando sarà Signore e giudice giusto. Essi stessi lo hanno esasperato provocandolo a mostrarsi Signore e di questo hanno dato prova allorché, essendo egli elevato in croce, cinsero lui, che è innalzato sopra ogni nome, con il diadema della giustizia, che sono appunto le spine sempre verdi. Questo diadema è nemico di coloro che insidiavano Cristo e li ha respinti, ma è amico di coloro che entravano a far parte della Chiesa e li ha coronati. Questa corona è il fiore di coloro che hanno creduto in colui che è stato glorificato. Esso però insanguina e castiga quelli che non hanno creduto. È anche il simbolo della vittoria del Signore che ha portato sul suo capo e sulla parte sovrana del suo corpo tutte le nostre cattiverie, dalle quali eravamo dilaniati. Egli stesso, avendoci liberati con la sua passione dalle insidie, dai peccati e da simili spine, e avendo tolto ogni potere al diavolo, esultò a ragione e disse: «Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?» Noi raccogliamo uva dai rovi e fichi dagli spini. Essi invece, il popolo indocile e sterile, a cui il Signore aveva steso le mani, si lacerano e si feriscono.